La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, e in questo venerdì 13 di ottobre alle 16:08:23 vi saluta in diretta e vi ringrazia per l'ascolto. Siate adesso in ascolto in podcast con Oscar Giannino. Vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo di un gravissimo problema che colpisce più di 3 milioni di italiani. In realtà ne colpisce il doppio, per così dire, nel senso che noi oggi parliamo di ciò che lo Stato non riesce a fare e di ciò che forse il Parlamento può fare, ma vedremo con che pesanti limiti. Quindi è una trasmissione volta a richiamare l'attenzione della politica, al di là della legge elettorale, dello Ius Soli e tutto il resto. Ci sono questioni che riguardano milioni di italiani che stanno in difficoltà terribile, e una di queste difficoltà è quella di cui parliamo oggi, cioè parliamo di oltre 3 milioni di italiani che hanno il problema serie disabilità che gli impediscono una vita autonoma, o di patologie degenerative alla nascita che obbligano quindi a un'assistenza sia pur domestica ma permanente, o a malattie croniche dovute all'anzianità della popolazione. Ecco, e nei confronti di questi nuovi soggetti lo Stato fa attualmente molto poco. Poi vi darò delle cifre disaggregandole sia dalla spesa sociale che da quello che si fa attraverso il fisco. E in particolare poi, sono di questi giorni vicende, anche una di cui abbiamo parlato più volte in questi ultimi due giorni, tragica, come quella di Loris Bertocco. Loris Bertocco, persona straordinaria, l'ho conosciuta diversi anni fa, un attivista dei diritti, un ambientalista, però era paralizzato da decenni, è stanco di lottare contro l'impossibilità di ricevere sostegni pubblici adeguati alla sua particolare, grave, molto seria inabilità, è andato in Svizzera per il suicidio assistito che è avvenuto ieri, perché non accettava l'idea di dover continuare a, tra virgolette, devastare la vita dei suoi cari e dei suoi amici. Ecco, ma la realtà è che ci sono, ripeto, oltre 3 milioni di italiani alle prese con questo problema, ed è un problema che finisce integralmente a carico di coloro che prestano la cura parentale o amicale nei confronti di queste tre diverse tipologie di soggetti portatori di inabilità. E questo che cosa significa? Significa, per come funziona, cioè non funziona, il nostro welfare e il nostro fisco, che purtroppo diventa un problema per il quale, poiché molto spesso a prestare queste cure di assistenza parentale sono le donne che si trovano poi magari a dover anche lasciare il lavoro. Significa che inevitabilmente famiglie si impoveriscono, significa che quelle famiglie che poi fanno parte nella nostra piramide dei redditi degli incapienti fiscali si impoveriscono ancora di più. Agli incapienti non sono arrivati neanche i bonus degli 80 euro a tempo questi anni. Sapete che il nostro sistema fiscale è gravissimamente carente soprattutto sui poveri, e abbiamo una povertà assoluta che è cresciuta a troppi milioni di italiani. In quella parte d'Italia la questione dell'assistenza ai disabili diventa dramma che si aggiunge al dolore delle condizioni, ma dramma economico, di reddito, ed è un dramma rispetto al quale lo Stato fa molto poco attualmente. Prima di darvi le cifre, perché ne parliamo oggi? Perché può essere, speriamo, e vedremo adesso con i nostri ospiti, i protagonisti di questa vicenda, che dall'esame del Senato, dopo 20 anni e più di richieste delle associazioni del terzo settore, possa arrivare in porto una legge sul riconoscimento di coloro che prestano assistenza ai disabili, agli anziani cronici e ai portatori di patologie inabilitanti. Il problema è che questa legge è vuota dal punto di vista dei denari, cioè lo vedremo meglio tra poco, ma vedrete che questo è il grande problema. E allora uno potrebbe dirmi: vabbè Giannino, ma su 800 miliardi di spesa pubblica cosa vuoi che sia? Si trova, basta volerlo. e si trova. Ecco, ma il problema posto così corre il rischio di essere posto con una qualche ingenuità, nel senso che un problema che riguarda milioni di persone non può trovare una soluzione, non dico adeguata, ma neanche minimale, con i margini che ha il MEF per questo tipo di provvedimenti che si trova a finanziare fuori dalle grandi scelte delle leggi di bilancio con qualche decina di milioni, perché voi capite che di 20, 30 milioni, 50, a fronte di questa enorme questione, sono, non voglio dire nulla, ma praticamente sono nulla. Qui siamo in un ordine dimensionale di aiuti necessari che comporta, rispetto alla stima quantitativa che vi ho dato, cifre che sono nell'ordine di un paio di miliardi almeno, non di 20, 30, 40 milioni. Ed ecco che allora, quindi, oltre a quella che è diventata la peggiore sconfitta del welfare, del sistema fiscale redistributivo italiano proporzionale progressivo, anzi non proporzionale ma progressivo, cioè quella dei poveri e degli incapienti, c'è questa seconda colossale sconfitta del welfare e del fisco per come sono congegnati oggi, che è quello del mancato riconoscimento di corrispettivi che a mio giudizio devono essere fiscali prima che trasferimenti misurati ad hoc per singola situazione, perché lo Stato si dimostra incapace di fare quello che in gergo tecnico si chiamano i means test, cioè di stabilire lui quali sono le condizioni a fronte dei quali ti riconosco X. Bisogna innanzitutto intervenire, come si fa in altri grandi paesi, in Francia per esempio, cambiando l'impostazione della tassazione, cioè reintroducendo innanzitutto lo splitting familiare, e per coloro che sono incapienti e sono al di là dell'incapienza, che 7.000 rotti euro sono sotto la soglia del minimo vitale, lì bisogna intervenire con un'integrazione sulla differenza tra il reddito esistente in famiglia e quello del minimo vitale, che però a fronte della presenza di cure parentali nel nucleo familiare deve innalzarsi con un corrispettivo monetario. Ecco, dal mio punto di vista, senza un intervento di questo genere non sono i 20, i 30, i 40 milioni che possono trovare una soluzione minimamente adeguata. Io vi ricordo che altrimenti senza una cosa che riveda dai fondamenti come funziona il welfare e il fisco per chi ha meno e per chi sta peggio e si trova a fronteggiare le condizioni per cui lo Stato non può occuparsi nella sua sanità di queste cose, non lo fa, e sarà sempre peggio in vista della curva demografica devastante che abbiamo, cioè dell'invecchiamento della popolazione e del moltiplicarsi, quindi dei cronici non ospedalizzati. Quindi ci sarebbe bisogno di una parte di assistenza a casa pubblica che il pubblico non darà, ne possiamo stare certi, e per la quale l'attuale organizzazione delle prestazioni pubbliche assistenziali, cioè quelle che fanno capo all'INPS, e delle 150 misure su 444 di agevolazioni fiscali, deduzioni e detrazioni che vanno alle persone fisiche, ecco, né il primo capitolo, le prestazioni sociali dell'INPS, né il secondo, l'attuale organizzazione delle agevolazioni fiscali per le persone fisiche, danno minimamente peso a questo fenomeno devastante di cui parliamo oggi. Se guardiamo le prestazioni pubbliche assistenziali, sono circa 65 miliardi nel nostro paese, 30 miliardi sono di natura previdenziale, integrazione al minimo e così via, 5 miliardi di prestazioni sociali, 16 miliardi agli invalidi civili, 6 miliardi, un po' di più, agli assegni familiari, cioè il sostegno crescente per numero di figli, ma questo riguarda la numerosità della famiglia, famiglie sotto una certa soglia di reddito, non sfiorano minimamente il problema della disabilità e di chi deve dare una mano nella disabilità sotto una certa soglia di reddito. Poi abbiamo 40 miliardi di pensioni superstiti, che sono 5 milioni di assegni, 14 miliardi di indennità di disoccupazione che sono pagati dai contributi solo per la metà, e questo riguarda, diciamo, le prestazioni INPS sociali centrali. Poi ci sono più o meno 7 miliardi, quasi 8 miliardi di euro di prestazioni, di interventi assistenziali a favore dei cittadini in condizioni di bisogno che vengono, sono a carico degli enti locali, delle regioni, del comune, in maniera difforme, da regione a regione, da comune a comune. Difforme significa non ci sono le risorse laddove si concentra il fenomeno davvero. Le risorse dipendono da quanto sta messa bene o male la finanza pubblica locale. Voi capite che non è un criterio accettabile, eppure questo è il criterio. Però di quegli 8 miliardi, da quello che ne sappiamo e ne ricostruiamo, il 40% circa va alle famiglie povere e minori, solo il 20%, che a quel punto diventa una goccia nel mare, ai disabili direttamente, niente a chi si occupa dei disabili. Ecco, la condizione è questa, quindi un enorme problema. Mi rendo conto, i partiti hanno la testa altrove, ma qui stiamo parlando di milioni di italiani che soffrono per le loro malattie e che si impoveriscono perché non c'è alternativa a quella di una prestazione individuale continua, praticamente quasi sempre continua, perché la gente non ha di come pagare assistenza specializzata a casa, che significa sottrarsi al lavoro e avere ancora meno reddito. A me sembra un problema devastante, dovrebbe essere una delle priorità fondamentali del paese. Per parlarne abbiamo Laura Bignami, che è senatrice del Movimento X, cioè significa per, nel gruppo misto. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie agli ascoltatori. Ed Elena Piantanida, che è vicepresidente del Coordinamento Nazionale delle Famiglie Disabili. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Piantanida, partirei da lei. Parta dal presupposto che chi ci ascolta non sa nulla dei tre disegni di legge, della legge di cui stiamo parlando, di cui parleremo meglio con la senatrice Bignami, eccetera, eccetera. Però, innanzitutto, voi che cosa sperate sia possibile davvero ottenere? Noi speriamo che il governo capisca innanzitutto chi siamo, perché è già una cosa molto difficoltosa riuscire a spiegare chi siamo e che cosa facciamo, e poi che vengano riconosciuti i diritti delle persone, cioè noi viviamo continuamente, viviamo in totale abnegazione nella cura che noi facciamo per i nostri figli, per i nostri cari, per le persone che non sono autosufficienti. Noi diventiamo le loro mani, le loro bocche, le loro gambe, e svolgiamo funzioni di tipo burocratico, facciamo tutto quello che loro non sono in grado di fare, annullando completamente la nostra vita. Ecco, noi chiediamo che il governo capisca che anche noi abbiamo diritto a vivere la nostra vita e che stiamo facendo tutto questo semplicemente per l'amore che proviamo per i nostri cari. Se chiunque che al governo deve redigere questa legge stabilisce che i nostri diritti non hanno importanza semplicemente perché nel portafoglio del governo non ci sono soldi da poter spendere per noi, ecco, allora diciamo che non viviamo in un bel paese. Sappiamo benissimo che altri stati europei e nel mondo sono anche stati che hanno delle legislazioni, diciamo, meno titolate rispetto alla nostra, hanno delle leggi che tutelano i diritti di queste, delle persone che si prendono cura dei propri familiari. Quindi noi, diciamo, pretendiamo che ci venga riconosciuto, ma non soltanto la giornata del caregiver. Noi pretendiamo che ci venga riconosciuti il diritto ad ammalarmi e a curarmi, il diritto ad avere una vita indipendente, a poter lavorare e fare la professione che io ho studiato e che io vorrei svolgere. Io sono architetto, ma lavoro a tempo perso come architetto, posso organizzarmi le mie giornate con gli orari che mi gestisco proprio quando non ho Francesca, perché Francesca frequenta la scuola e quindi la mattina sono un pochino più libera, il pomeriggio quando mi viene qualche ragazza che pago con i miei soldi, che può stare con Francesca, accompagnarla in piscina, accompagnarla a teatro, accompagnarla a tutte le attività che lei può fare, la logopedia, la fisioterapia, che anche quelle facciamo a pagamento perché l'ASL non ce le passa più. Ecco, noi non ce la facciamo più. Noi vorremmo poter gestire la nostra vita esattamente come qualsiasi altro essere umano. Questo noi chiediamo al governo, che capiscano chi siamo e che cosa vogliamo. Noi la giornata di festeggiamento del caregiver familiare non ci serve, non ci servono che ci organizzino dei corsi. Abbiamo visto che in alcune regioni, in alcune zone vengono organizzati il corso di teatro per alleviare la giornata dei caregiver. Noi, se vogliamo fare teatro perché è la nostra attitudine, qualcuno starà con i nostri cari e noi andremo a fare il corso di teatro, che però scelgo io, non che qualche associazione ci organizza perché possiamo farla assieme ai nostri familiari. Ecco, cerchiamo di distinguere le due persone. Una cosa è il disabile, una cosa è chi si prende cura del disabile. Noi vorremmo poter vivere la nostra vita separatamente, pur con tutto l'amore, pur con tutto la cura che noi ci prendiamo per loro. Cioè, questo noi vorremmo che lo Stato capisse. Allora, diverse regioni sono intervenute su questo argomento, però ripeto, sono interventi che di solito si limitano alla definizione di che cosa siete, più che alla costruzione, ecco, che alla costruzione di strutture concrete di sostegno. Fa eccezione ovviamente perché hanno una finanza pubblica molto più ricca le due province autonome del Trentino Alto Adige, però gli interventi che ci sono stati, la Campania e così via, per il momento i soldi non ci sono. Il coordinamento in questi anni che tipo di interlocuzione ha avuto con e la politica? E con la politica ha avuto negli anni la possibilità di parlare. Sono da poco nel coordinamento, però c'era già stata fatta una richiesta di legge. Ora, all'epoca si parlava solo di prepensionamento, e passò alla Camera, credo, e poi venne bloccata perché anche lì non avevano trovato le risorse, non avevano trovato i fondi per poter passare. Poi cadde il governo e quindi non se ne parlò. Io devo dire la verità, io trovo il prepensionamento è la classica cosa a cui pensa la politica, ma è sbagliato perché nel senso è che io per questo dico, io sono per il sostegno fiscale immediato a seconda del tipo di reddito delle famiglie, perché quello che serve è il sostegno immediato nel corso degli anni, non mettere maturo i requisiti per la pensione, poi quello sarà un altro paio di maniche. Però immagini persone che ora hanno magari 60 No, no, no, ma infatti dicevo, quando poi si pone il problema, ma nel frattempo se tu non mi dai niente, non è che io aspetto che di avere la vita rovinata a 65 o 67 anni, questo voglio dire, no? Perché, quindi ridurlo solo a quello. Persone che magari sono 40 anni, 45 anni che lavorano, cioè cose dell'altro mondo. La Fornero, quando ha cambiato le regole in corso d'opera, si è dimenticata. Ecco, questa era esattamente una delle categorie, sono totalmente d'accordo, questa era una categoria rispetto alla quale andava commisurato da subito anche per la pensione. Però ripeto, secondo me bisogna proprio assumerla come una priorità. Se uno guarda i numeri sul peso dell'ingiustizia del nostro welfare e fisco, da una parte ci sono la povertà, il fenomeno della povertà e degli incapienti, dall'altra c'è questo fenomeno di massa che non potrà che crescere oltretutto dal punto di vista demografico, perché ripeto, con il 6.8%, il 7% di risorse date di PIL al sistema sanitario nazionale, noi non potremmo mai immaginare di occuparci dei cronici e dei disabili a casa. Primo, secondo, noi stiamo parlando qui, oltretutto il problema diventa tragico quando stiamo parlando di famiglie che non possono concorrere per basso reddito disponibile alla spesa privata sanitaria italiana, che sono comunque altri 36 miliardi che si aggiungono, sono altri 2 punti di PIL pieni, virgola qualche cosa, in cui i privati spendono. Allora, intanto grazie all'impegno, e non solo quello che fa nella sua vita per Francesca, di Elena Piantanida. Invece passiamo alla alla senatrice Bignami. Allora, spieghiamo a chi a casa in cosa può consistere questo intervento di cui vi state occupando legislativo e che cosa, a suo giudizio, e soprattutto perché manca ancora a questo tipo di intervento legislativo. Senatrice. Beh, manca, io sorrido perché non ci sono delle persone, perché vabbè, sono, prima di essere dei politici sono delle persone che si prendono cura degli ultimi. In realtà purtroppo la politica, soprattutto quella attuale, è composta da persone che pensano ad altro. E qui mi fermo. Lei se ne è convinta anche una volta entrata in Parlamento? Ha constatato davvero che è così? Sì, per questi temi assolutamente sì. Mi dispiace dirlo. Poi in realtà se c'è poi qualcuno che se ne fa carico e che se ne occupa, diventa automaticamente un problema trasversale. In realtà non ci sono posizioni rigide nei confronti di questo disegno di legge. È chiaro che poi c'è tutto un discorso serio di occuparsene seriamente, perché questo disegno di legge è il testo unico che è uscito. Per chi non faccio un piccolo riassunto, in realtà sono stati depositati in Senato 3 disegni di legge, a prima firma De Pietro, Bignami e Angioni. Quella di Pietro è esclusivamente sulla figura dell'anziano, sull'accudimento dell'anziano, la mia, che dopo se vuole ne dico quali sono i capisaldi, e che è quella che cercano di portare avanti poi queste associazioni, soprattutto per il discorso di questo riconoscimento, per un problema identificativo e identitario, che sono due cose diverse. Certo. Quindi acquisire un'identità e non nascondersi sempre silenziosamente dietro questo lavoro ed essere l'ombra di un disabile. Sì, in realtà loro sono caregiver, quindi hanno bisogno sono prestatori volontari di cura. È giusto, ma questo volontario lo vorrei anche togliere. No, perché in realtà volontario è coatto, certo, nel senso che questo certo, è un volontario un po'. No, sono qua. Cioè, sull'idea del volontariato è un altro volontario. Non c'è dubbio, ragione è un lei. Po' più volontario, ecco. Poi questo mio disegno di legge tratta più argomenti tipo nazionale, nel senso previdenziale, sulla previdenza, riconoscere dei contributi figurativi a queste persone, nel senso del recupero dell'identità di queste persone, perché queste persone ci sono quelle come che fanno questa attività tutta una vita, ma possono farla anche solo, tra virgolette, 20 anni, 25, e quindi poi alla fine dedicarsi al lavoro, quindi avere la possibilità di andare avanti a lavorare, di mantenere la propria identità. Questo è un discorso serissimo, perché se uno ha un figlio cerebroveso e lo cura 20 anni e noi non riconosciamo come è stato loro i contributi, queste figure devono poi per forza finire nel lavoro nero, perché comunque non avranno una pensione se non quella sociale. Non avranno una pensione se non l'integrata al minimo sociale, esattamente. E quindi distinguere queste persone da quelle che poi non hanno mai lavorato per vari motivi, secondo me è doveroso. Sì. Poi c'è un aspetto che non è stato... No, ma è una questione, qui non c'entrano i numeri, voglio dire, del bilancio previdenziale, è una questione di elementare civiltà, cioè voglio dire, un welfare di qualunque tipo, possiamo essere più liberali, liberisti, possiamo essere più stati, che non parta da questo, cioè fenomeno che colpisce in questa maniera così brutale, ripeto, milioni di italiani. Io mi chiedo che basi abbia un welfare se se ne frega di questa cosa qua. E la cosa che mi lascia attonito è anche adesso questa roba non equivocata da cari ascoltatori, non sto facendo polemica, però capite che per me è un problema aggiuntivo vedere che la sinistra non, nel senso che dovrebbe essere l'ABC, cioè il welfare e il fisco, per la vecchia idea dell'allineamento sull'asse politico destra-sinistra, uno ha l'idea che i poveri, cioè gli incapienti, la povertà assoluta, B, chi sta peggio perché è disabile e chi si occupa del disabile con devastazione della possibilità di reddito e occupabilità nella vita, perché di questo stiamo parlando, e quelle due cose lì sono, per me, che l'Italia se ne sia lavata le mani, per me sono incomprensibili. Però detto tutto questo, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo le informazioni sulla borsa e un po' di pubblicità, e poi torniamo con la senatrice Bignami, si aggiungerà anche un terzo ospite. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di uno dei due enormi buchi neri del welfare e del fisco italiano. Da una parte la povertà assoluta e gli incapienti che in questi anni non hanno avuto attenzione neanche alle misure di sostegno al reddito, ma gli 80 euro. Dall'altra, alcuni milioni di disabili portatori di patologie gravi, di malattie croniche, scusatemi, legate all'età. E su questo dobbiamo sapere che la questione non potrà che peggiorare, perché ci troviamo con ultraottantenni che oggi sono già il 6,5% della popolazione e che continueranno a crescere rispetto a una coorte di giovani che invece sarà di proporzioni molto più ristrette. Già oggi in Liguria c'è un 28% di anziani e poco più dell'11% di bambinetti energici. Quindi noi abbiamo, oltre alla, purtroppo, alla presenza come inevitabile di patologie inabilitanti serie, una curva demografica che non può che moltiplicare la domanda inevasa dal pubblico cronici che non possono essere trattati, non vengono trattati dal sistema sanitario nazionale, che finiscono, come abbiamo detto, integralmente a carico dei familiari, quasi sempre, spessissimo donne, che quindi a quel punto si vedono la vita, l'occupabilità e il reddito diminuire e non hanno alcun riconoscimento. Di questo stiamo parlando e ci sono alcune telefonate. Cominciamo con Roberto da Bologna. Roberto, prego. Buongiorno, grazie Oscar per l'argomento che trattate. Io seguo mia madre, ho 68 anni e 69 ormai, e sono un libero professionista, quindi come ha detto la presidente che mi ha preceduto, cerco di lavorare perché ho bisogno di lavorare nei ritagli di tempo. Ho la fortuna che mia madre è stata presa all'asilo, si chiama centro diurno per gli anziani, ma mi suona male, preferisco chiamarla asilo, e in quei ritagli di tempo cerco di portare avanti il lavoro. Le istituzioni fanno meno di nulla. Io sono arrabbiatissimo, l'Emilia Romagna, che è l'unica regione in Italia, da quello che so io, che ha fatto una legge per assistere la persona, basta leggere l'ultima riga dell'ultimo articolo che dice questa legge non richiede nessun aumento di spesa. Lo so, infatti questo è il problema. Allora se non c'è un euro a disposizione... Leggi manifesto, cioè io capisco che comunque un passo avanti, ce lo spiegava prima la senatrice Bignali, l'assunzione ordinamentale di una identità e di un'identificazione, ma è inutile far finta di non sapere che, ripeto, non solo non c'è una lira, ma anche l'attesa che il MEF dia qualche decina di milioni rispetto alla grandezza, all'impatto del fenomeno di cui stiamo parlando è una pura illusione che io eviterei, perché a quel punto siamo addirittura alla beffa oltre al danno permanente. Allora, ci ha chiamato anche la senatrice Cristina De Pietro, che è stata evocata prima come firmataria di una delle tre disegni di legge che convergono in quello di cui parlavamo con la senatrice Bignami, che comunque resta con noi. Allora, buon pomeriggio e grazie di averci chiamato, senatrice. Grazie a voi per affrontare questo argomento. Io mi scuso, sono in macchina, per cui si spero figuri, che si l'audio figuri. No, sia... sentiamo, ci dica. Sì, io sono la senatrice che ha presentato il disegno di legge che nello specifico prende in esame il problema delle famiglie che si occupano degli anziani. Sì. Permetto che ho firmato e ho sostenuto il disegno di legge della collega Bignami, che saluto se mi ascolta. Sì, sì, è qui con noi. E che però ci tengo a precisare che nell'ambito della disabilità i numeri degli anziani sono enormi, enormemente più grandi rispetto a tutte le altre disabilità. Ed è un problema che, come è stato detto, non può che peggiorare, perché Già. Il trend demografico è quello che conosciamo. Sì. E perché io mi sono focalizzata sull'importanza di tenere l'anziano in famiglia, perché è risaputo da studi scientifici che l'anziano tenuto in famiglia tende ad avere un peggioramento molto più lento dei propri problemi di salute, e quindi alla lunga si ha anche un risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale. personale. No, no, no, certo, certo, certo. Perché poi, ripeto, la tendenza è quella a esternalizzare i cronici. Quindi questa sarà, purtroppo è così, quindi è vero anche l'osservazione che ci fa lei. Io tra l'altro ringrazio tutti coloro che stanno mandando le loro testimonianze con gli SMS. Ne voglio leggere solo una, perché sono molti, sono anche toccanti, lo capisco, perché stiamo parlando di un tema che è devastante per la vita, non solo degli affetti, concreta, dimmi. Con milioni di famiglie. Per esempio, c'è una madre che ci scrive: sono mamma di ragazzo di 42 anni. E il ragazzo ha 42 anni, non la mamma, che ci scrive: tutte le mattine lo devo accompagnare al lavoro facendo 30 km tutti i giorni, se al mattino e al pomeriggio dove vado a prenderlo. Questa è la mia vita da decenni, non ho mai percepito nulla. Cosa vuole che le dica, di cosa posso pensare io e mio marito di uno Stato che disconosce l'esistenza di questo problema per alcuni milioni di italiani? Sì, purtroppo io posso solo abbracciare la distanza insieme a chi sono qui con noi, tenta da anni di scuotere poi chi decide la politica. Non sono i singoli parlamentari, come sapete, i pochi sensibili non portano a casa i provvedimenti di legge, e soprattutto gli stanziamenti, quelli si decidono con tutt'altri criteri. Senatrice Bignami, ma l'interlocuzione diretta, diciamo, con il governo sull'argomento stanziamenti e criteri per accompagnare all'identificazione del prestatore coatto di assistenza, abbiamo detto, piuttosto che volontario, dei riconoscimenti concreti di prestazioni monetarie e di detrazioni fiscali. Questa interlocuzione tecnica, cifre alla mano, vista l'importanza del fenomeno, è mai davvero avvenuta? Attualmente in corso, nel senso che nel mio disegno di legge proposta era una delega governativa, perché ricordiamo che siamo a 5 mesi dalla scadenza, sì. Quindi non possiamo fare questo di cui lei sta parlando, richiede molto tempo e purtroppo non c'è. Però se riusciamo a far passare la forma delega, non abbiamo neanche bisogno di fare di avere le coperture, perché questa così funziona, esattamente. È così. Però io volevo citare, perché probabilmente due cose mi deve far dire, perché sono dica. Non abbiamo detto due cose importanti. Allora, l'articolo 32 della Costituzione e il diritto alla salute di ciascuna persona. Queste persone che accudiscono non sono disabili, quindi assolutamente non dobbiamo toccare in nessun modo, come certo. È stato proposto o paventato da qualcuno, i fondi no. Questa è una questione distinta, sarebbe certo. una pagliacciata. Esatto. La seconda è che queste persone non riescono ad accedere alla salute, perché nel momento in cui si ammalano non c'è un protocollo, esatto, che prevede di cosa fare, come accudire queste persone nel mentre. E questa è un'altra cosa gravissima, perché cioè, siamo nel 2017, queste persone non è che sono comparse, ci sono sempre state. Esattamente. E quindi mai nessuno ha fatto caso a questa piccola cosa. Poi esiste, nel 2016 esiste una sentenza della Corte Costituzionale, che vado a recitare perché è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, esatto, e non l'equilibrio di questo a condizionare. Bravissimo. Questo dovrebbe essere principio. Benissimo. È il principio che mi muove, mi muove in maniera agguerrita e quasi in trincea da due anni con queste mamme. E 17, poi adesso venerdì 17, scusa, ho detto 17, è venerdì. Martedì 17 faremo una conferenza stampa in cui poi illustreremo i nostri emendamenti, perché il testo così non va assolutamente bene. E questo è quello che ci porta avanti. L'idea, noi sappiamo ad esempio che c'è un premio Nobel, una certa Elisabeth adesso mi sono impiccato sul cognome, che ha dimostrato, ed è un premio Nobel, non sono io o lei, cioè un premio Nobel. Si chiama Elizabeth Blackburn. Chiedo scusa. Sì, figuri. Che ha dimostrato che vivono 17 anni meno, facciamo anche 15. Cioè, perché, per quel motivo, se so che queste persone vivranno in media così tanto in meno io non posso mandarle anche 5 anni in pensione. No, no, ma infatti ripeto, cioè, sei scientifico. Io quello che dico solo è che ci vuole un ragionamento complessivo, non partire dal professionamento, che pure è, io l'ho detto, io all'atto della Fornero, questo è chiaro che è una questione che doveva essere prevista sin dall'inizio, ma il problema è che non è prevista in nessun momento dell'arco vitale di chi deve affrontarla questa questione di famiglia, che è una cosa pazzesca, cioè siamo veramente un paese di cui da questo punto di vista dobbiamo solo vergognarci, che per decenni io lo trovo veramente incredibile, e anche che chi se ne occupi finisce per avere un'attenzione un po' così. Io in questi giorni sul Mattino abbiamo dedicato molta attenzione, però è come se fosse una non questione, è incredibile, la vita di milioni di persone è trattata come se fosse trasparente, è pazzesco. Allora, strade, torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati per questa parte finale di questa trasmissione che spero comunque non vi abbia deluso, annoiato, ma stiamo parlando di quello che a mio giudizio, insieme a quello della povertà, è il problema numero uno più grave non affrontato dal nostro welfare, dal nostro fisco, lo ripeto, quello di chi presta obbligatoriamente, perché solo lui, lo Stato non lo fa, l'assistenza a oltre 3 milioni di disabili, portatori di patologie inabilitanti e anziani cronici. E sono tre categorie nelle quali la risposta pubblica non c'è, e la cosa incredibile è che non ci sia un riconoscimento, un sostegno fiscale o trasferimenti monetari sotto una certa soglia e agevolazioni sociali fino a poi l'età della pensione, tenuto conto che qui stiamo parlando di vite intere che vengono volte solo a questo fine qua, solo a questo fine qua. Allora, nell'arco degli interventi delle regioni, ce n'è stato proprio recentissimamente, pochi giorni fa, l'11 di ottobre, è intervenuta anche in Regione Lombardia, che ha approvato una proposta di risoluzione sul riconoscimento, ne abbiamo a lungo parlato, necessità del riconoscimento e che cosa questo vuol dire, ma anche la tutela e il sostegno di chi appunto presta l'assistenza, cioè di quello che si chiama il caregiver in inglese, il caregiver familiare. E abbiamo con noi Fabio Rolfi, e insieme a Fabio Rolfi vorremmo capire, abbiamo spiegato in lungo e in largo ai nostri ascoltatori che il problema del disegno di legge è risorse zero, e quindi sì, va bene, l'identificazione, l'identità, però risorse zero significa che praticamente non si fa un grande passo avanti. Fabio Rolfi è il vice capogruppo della Lega in Regione Lombardia. L'intervento della Regione Lombardia rispetto al disegno di legge che abbiamo criticato, che la stessa senatrice Bignami mi ha detto così non va, noi lo dovremmo dire nella conferenza stampa martedì prossimo, il vostro tipo di intervento di che tipo è invece? Grazie di essere con noi innanzitutto. Beh, grazie a voi. Di due tipi, il primo di ordine pratico, concreto, al di là del riconoscimento nazionale, noi con le nostre risorse, con le risorse trasferite sulla partita della non autosufficienza, sempre comunque storicamente non sufficienti, da tempo eroghiamo dei contributi regionali che vanno a integrare le disposizioni che esistono per la non autosufficienza, per appunto aiutare questi nuclei familiari. Si tratta di contributi sotto forma appunto di voucher che vanno per i casi di assistenza di disabili gravi, gravissimi, malati di SLA, situazioni particolarmente complesse, complicate e compromesse. Non è sufficiente, quindi serve questo disegno di legge. Qui arriva la risoluzione, che è un provvedimento di stimolo politico che impegna la Giunta a promuovere tutte le iniziative necessarie per sollecitare il Parlamento. Sarà votata, la Commissione Sanità l'ha votata all'unanimità, peraltro, sarà votata poi solennemente dal Consiglio regionale il 24 di ottobre, e vuole insistere sul riconoscimento normativo con tutti gli strumenti che servono, anche di natura previdenziale, questo lo voglio sottolineare, appunto la figura del caregiver, perché si tratta di una realtà che interessa migliaia di italiani, migliaia di lombardi, e che rappresenta un contributo integrativo fondamentale anche per il servizio sociosanitario regionale o nazionale, se vogliamo estendere il termine nazionale. Senza di questi il sistema andrebbe probabilmente in default. Proprio per, no, non c'è dubbio. Proprio per la, l'attività di ammortamento che fanno rispetto all'accesso ai servizi. Però parla di persone che per una scelta d'amore, geneticamente anche molto bella, dedicano gran parte, tutta la loro vita. Quindi ha bisogno di riconoscimento anche in natura. Allora, noi continueremo. Io personalmente sono impegnato per questa causa, quindi continuerò a seguirlo, a dare spazio, eccetera, eccetera. Speriamo. Tutti lo sapete, però, anche l'attenzione dei leader politici. E altrove, alla fine della legislatura, la legge elettorale, le liste. E io temo, come sempre, che gli enormi problemi dei milioni di italiani vadano in seconda battuta. Non faccio il qualunquista, è un fatto oggettivo, quello di cui abbiamo parlato oggi, che sia una grandissima, ingiustificabile fallo. Grazie agli ospiti, a tutti voi, e appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti da Belva, dove parleremo di fisco, perché c'è il decreto fiscale di oggi, della Catalogna, dei referendum in arrivo in Italia e del centenario della rivoluzione d'ottobre. A domani.